c'è una pazza in Geneva. Una cosa folle, stavo impazzendo. Dove? Buonasera Marco. Dove? Dove abito io? Non ce n'era né nella via mia, né dietro, né sopra, né sotto, niente. Una cosa incredibile. E sotto casa, dopo un'ora e un quarto di attesa, non è uscito nessuno. Ogni tanto facciamo un giro, non ce n'era nessuno, né nella via di sopra, né nella via di sotto, né trasversale, niente. Guarda, sono arrivato alle 4:30 dalla spesa e sono entrato a casa alle 6:15, aspettando il parcheggio. È una roba da pazzi. Conviene uscirsene in tram, gira. Infatti per il parcheggio è un problema veramente dentro Sassari. Troppe macchine ci sono, troppe macchine, per cui aspetta, non i fluvi, certe volte si va a fare qualche dovere dentro Sassari e sai, gira che ti gira, non riesci a trovare un parcheggio, a tu fare la metti il parcheggio a pagamento e sei tranquillo, paghi ma almeno non stai girando, perché quanti stai gira che ti gira, consumi tanto di quella benzina, non hai idea, capito? Certo, uno che abita lì dentro Sassari, la parte tua, anche lì è un problema, ma è dappertutto così, vai. Solo all'esterno puoi trovare parcheggio, ma internamente è un po' difficile, ma... Sai cos'è? Qui prima c'era un bar, poi i bar sono diventati due, mettono le macchine in doppia e tripla fila. È una cosa allucinante. Questa via prima non era così, adesso è diventata una cosa proprio... Diventi matto. Sono stanco morto, perché io ogni tanto mi fermavo lì, aspettavo che qualcuno uscisse, niente. Sopra lo stesso, niente. Poi, a un certo punto, ho visto uno con le luci di retromarcia, uscendo. Ho fatto una fretta a fare il giro, perché ci avevo uno attaccato dietro, pensa, se avessi girato lì per prendere non mi avrebbe... ho fatto il giro, mamma mia, guarda quanto mi è costato oggi diventare matti, cioè io sicuramente ho sprecato più benzina che non andando a fare la spesa e a tornare. Qua ci vorrebbe la moto davvero, la moto, fare commissione moto, purtroppo già lo sai, no? Non ci sono fondi per mettere in moto la moto, doppio senso. Vedi, con la moto è già un'altra cosa, capito? Magari perché trovi il buchetto e ce l'hai fine dentro e va bene, però secondo cosa devi fare, la seconda spesa che devi fare, in bicicletta non è che riesci a portare via tutto, capito? È un macello, solo in moto o in bicicletta. Ma io mi sono preso la bicicletta, quando vado a fare qualche cosuccia così vicino a casa, la macchina non la tocca nemmeno, vado in bicicletta, c'ho il zainetto, il cestino, per comprare me la porto via. Però in macchina è impossibile, certo se devi andare più lontano, magari devi prendere un sacco di roba, come si fa? Sei costretto a prendere la macchina, però quando ritorni lo trovi in parcheggio. È un problema, non da attendo solo, è dappertutto. Lo so, troppe macchine ci sono. Io sono andato da Lidl, dietro la GBC via Caloferite, è lì dietro, è questo Lidl, non mi ricordo la via. Insomma, andare ci metto un attimo, a tornare ci metto un attimo, poi arrivo qui ed è un incubo, guarda, mamma mia. Ogni volta di bestemmio questi di questa via, non esce mai nessuno, c'è gente che sta giorni e giorni che non esce. Vabbè, anche questa è fatta, dai. Ma che qua capita così, no? Dietro di noi, noi ci abbiamo i parcheggi, quelli che abitiamo noi, ma ci sono i figli, certe volte vengono, sa che noi parcheggiamo sempre in quei punti, no? Stanno ore e ore e tu sei costretto a metterlo da un'altra parte, che viene anche male, dopo devi riscendere, devi mettere in marcia e riposteggiarlo quando se ne vanno. E anche qua è un macello, sembra così, però su per giù la maggior parte si trova sempre il parcheggio, capito? Perché siamo lì fuori, magari parcheggio ce ne sono parecchi, capito? Però certi giorni non trovi un buco, non trovi un buco, te lo fregano, come esci te lo fregano, e dopo sei tu senza parcheggio, capito? E allora, mamma mia, guarda, pensa che c'è un tipo, no? Uno che abita qui nel palazzo, che ha fatto lo sbaglio di mettere la macchina sullo stallo invalidi. E lui non ha diritto, no? In più ha messo la moto su un marciapiede. Beh, deve essere qualcuno ha chiamato, gli hanno fatto una multa per lo stallo invalidi e due multe per la moto sul marciapiede. Totale tre multe si deve pagare, ma roba da matti. Vabbè, la colpa è sua però, perché io lo so benissimo che la moto sul marciapiede non si mette. E nemmeno la macchina sullo stallo invalidi se non ha diritto. Peggio paese. E qua che ci vorrebbe la guardia. Non ci passo, ma passo dritto qualche volta. Per questo noi non abbiamo nessuna preoccupazione. Ci vengo, qua non vedi, non è qualche volta li vedi passare, ma raramente. E qua ci vorrebbe veramente uno, perché parcheggiano la me ne frego anche. Certe volte si prende anche due o tre parcheggi, la metto in traverso la macchina, non pensano che hanno diritto anche gli altri a parcheggiare, no, se ne frega, parcheggiano la me ne frego, capito? Un bedicetto è così. E qua infatti c'è la voluta la guardia, invece in centro è tutto un altro discorso, là dentro salta di un macello, lì è chiaro che stanno sempre circolando e per cui o prima o poi ci fregano, bisogna stare molto attenti perché oggi le multe sono salate, capito? Va? Caspita, sono salate sì, e quello se ne è peccato tre, ma anche lui non poteva pensare che con la scusa della macchina sullo stanno invalidi gli avrebbero multato anche la moto. Tre volte da pagare, peggio paese. Io non ne faccio di queste porcherie, io se mi metto sullo stallo invalidi mi scarico le buste, come oggi le buste della spesa, ma poi vado via subito, capito? Perché giustamente chi è invalido ha diritto a parcheggiare lì. E vabbè, guarda, sono scombussolato proprio da... Ero andato vero tranquillo, tornato vero tranquillo, poi qua un incubo, perché dentro tra noi c'è gente che sta tutta la sera lì al bar, capito? Stanno tutta la sera lì, parcheggiano dove trovano e poi stanno tutta la sera lì, quindi non è che spostano le macchine, è diventato un problema qua, è diventato un problema. Già tanti anni fa era fino a un certo punto un problema, ma adesso è un incubo. E vabbè, insomma io adesso sto usando quel baracchinetto omologato, quello che vorrei dare a Natalino, però se parla punta a capo, non so ascoltare. Vuole mangiare adesso, anche già si sta facendo tardi, poi già rimango ascolto, entrerà qualcuno qua immagino, dai, entrerà un sole squalo, Battisio, Pomponi o che ne so io. L'altra volta vabbè stavamo monopolizzando un po' il canale, che stavamo parlando di che cosa, non me ne ricordo nemmeno, due giorni fa, di cosa stavamo parlando, di baracchino omologati o cosa? Infatti, intanto che questi non si possono più usare, io infatti noi stavamo cercando questi omologati con la targhetta omologata con la CE e mi sembra che sono i pochi che mettono questa targhetta, quelli omologati. E ne abbiamo visto un paio e quello dice che non c'è la targhetta, non lo prende. L'altro dice la targhetta ci può essere o non ci può essere. Boh, distratto dice che è un blocato a termine di legge europea, dovrebbe andare bene il 40 canale AM, FM. Stavamo discutendo di questo particolare, capito? Adesso ne abbiamo visto uno, però mi sembra che non c'è la targhetta dell'omologazione con la CE. Sarebbe il presidente Barri, mi sembra, aspetta, clicco bene, come si chiama? È bello, un bel apparato, sa che colori. Allora, il presidente Barri, lo conosci? Ma credo che sia il presidente Harry, con la H. No, qua c'è scritto Barri, P-A-R-R-E-I-A-S-C, dopo c'è scritto. Sì, 40 canali, costa anche poco, mi sembra che costa 69 euro e 6 euro di spedizione, costa poco. Per cui quello stavamo guardando, però stavamo guardando di dietro che non c'era questa targhetta. Cazzo, se tu pigli questo apparecchio e non c'è questa targhetta, fai un controllo, non c'è la targhetta, te lo ritira. Sì, ma quello che c'è da un bene, quello che è 40 canali della Midland, l'Ama 48, il 48 Plus, il 48 XL e tanti altri, tutti omologati sono, ce n'è un sacco una sporta di omologati. Però dipende se vuoi pagare poco, capito? Ce n'è della Polmar, ce n'è della Midland, ce n'è della Intec, ce n'è della CRT, ce n'è un sacco una sporta, ce ne sono tanti, della Lafayette, Uglia, e so che se uno vuole spendere poco, tanto per... Io questo l'avevo preso tanto per mostrarlo ai controlli, no? Poi ho preso il 3900, sempre CE, omologato, che è migliore di modulazione, migliore di ricezione, migliore di tutto. Capito? Però questo funziona, vedo che mi capisci, quindi ogni tanto lo devo usare anche per farlo funzionare, se no si rovina. Ma ripeto, io, per esempio questo ci piace veramente perché è molto bello, tutto colorato, è veramente bello, ecco, è un po' grandetto, non è piccolino, capito? È bellissimo, infatti però non sappiamo se questo apparecchio c'è scritto che è omologato, c'è scritto è omologato a termine della legge europea, c'è scritto sul corpo, però dovrebbe avere una targhetta dietro il baracchino dell'omologazione, confermi? È un adesivo, c'è scritto tipo CE0341 oppure CE0678, poi non so se ce ne sono altri. Ma non c'è scritto niente, nemmeno targhettina c'è dietro, capito? È questo il fatto, perché abbiamo visto il retro e non ce ne sta altro che non sia proprio sotto la targhetta, proprio sul fondale, diciamo, ecco, e non si vede. Però come di solito gli altri baracchini ce l'hanno vicino all'attacco del TL, è una targhetta, capito? E questo non si vede, è strano, Aspetta che lo cerco, CB Presidente, vediamo. Esatto, allora, Presidente Barri, poi c'è anche due sigle, ASC. No, non è Barri, perché presidenti degli Stati Uniti, non è Barri, non ce n'è, Presidente Harry, eccolo qua, ce l'ho davanti, Presidente Harry, Harry 3, ci sono tre stanghette, ASC, vediamo se c'è una foto dietro. Dovrebbe avere, perché di solito tutti gli apparecchi dovrebbero avere una targhetta, adesivo, bensì, insomma, una targhetta deve avere. Sto guardando, vediamo, Presidente RSC. Harry, guarda che Barri, non esiste Barri. chiamo Amazon, però le foto di dietro non le fanno vedere. Aspetta, aspetta che faccio il trovato. Un attimo, abbi pazienza. C'era scritto, così, Barry, ecco, io faccio, mi faccio, me lo sono segnato in pezzo di carta, Barry, ASC, Presidente, Barry, ASC, dai, dai, sono qua. Allora, no, non è Harry con la H, Harry, 3 ASC, allora, se il modello 3, vediamo, perché è modificabile, ma poi parte l'omologazione, no? Aspetta che apro la foto. Eccola qua. Presidente. Mamma mia, si vede male. Però se è quello che c'è scritto, CE0341. No, allora non qua. No. C'è solo scritto, c'è solo scritto questa scrittura. Presidente Barry, ASC. È il prezzo, boh. Lì che sui bene. Un display digitale. Sui bei, guarda. Tu detta questo che ci sono, c'è anche tu io. E te la va. Te la va. Ci sono in Germania e ci sono anche in Italia. Dimmi se c'ha dei tasti bianchi trasparenti sotto il display. Già mi sembra che abbia 7 colori, questo qua. Si rassomiglia quasi, si rassomiglia al Presidente Lincoln versione 3. Super giù si rassomiglia così, capito? Eccolo qua, allora. Vabbè, la foto in via, allora. In alto a sinistra volume squelce e sotto il volume squelce c'è la presa microfonica, c'è la scritta SC, poi vediamo c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasti di colore bianco semitrasparente, qui a destra la monopola di canali, c'è questo, in alto RFGIN, Presidente. Harry 3, numero 3, c'è 3 sanghette ci sono. Non è quello, no. Ma non è quello che c'è, non c'è niente. Aspetta, se mi dai 5 minuti, te lo leggo direttamente che apro il computer. 5 minuti. Eia, comunque il Presidente Perry, io adesso controllo, ma non credo che esista Barry. Adesso controllo. Barry, mi faccia, adesso apro il computer, aspetta che lo accendo. Non ci credo. Hanno fatto il Presidente Perry, sì che c'è. Eccolo qua, ASC, sì. E perché? Perché c'è un Presidente nome Perry, boh. Visto che c'è, infatti, c'è, me l'ho anche segnato. Infatti se tu guardi il retro non ce l'ha di targhetta, però se tu guardi la scrittura e come è formato, te lo dice, no? Che è omologato, in termini di legge per l'Unione Europea, c'è scritto sotto, guarda. Ma c'è non ancora la targhetta, aspetta che ce lo cerco io, su, come si chiama? Radio NL, come si chiama, aspetta, dammi tempo, vai. Vai. Sì, perché è un apparecchio bello, mi piace, se si riesce a omologarlo veramente e che c'ha quella targhetta a quanto dicono, però c'è scritto su Debrea che è così, che è omologato in termini di legge dell'Unione Europea, dovrebbe andare bene, però se stanno dicendo che ci vuole questa targhetta è dietro, che attendo che la prendo l'apparecchio, magari non c'è la targhetta, se cercano quella non c'è, te lo fregano di nuovo, lo saranno oi. Allora purtroppo la foto di dietro non c'è qua su questo catalogo, non c'è la foto di dietro, quindi c'è multinorma, ma dovrebbe essere la norma europea, può essere che l'abbiamo messa anche sopra me la targhetta, perché dietro mi pare che c'è una ventola o cosa c'è, mannaggia la miseria. No, non c'è la ventola, ci sono gli aletti di raffreddamento e più ci sono l'attacco delle cuffie e l'altro attacco che non so perché cos'è quell'altro attacco, capite? Già c'è già, e se guardi bene in qualche duro, in quella pagina ci sono, ce ne sono tanti, capito? Per cui qualcuno te lo dà in retro, capito? Sì, è perché la connessione è lenta, caspita, non me lo fa per questo. Caspita, non lo conoscevo, questo deve essere nuovo uscito, non lo conoscevo assolutamente. Vediamo un po', qua c'è il frontale, mannaggia, tutti i frontali mettono, non mettono la parte indietro. Allora, per sì, vedo le lamelle di raffreddamento dietro. Si vede una foto posteriore, porca miseria. Te lo sto dicendo, Marco, l'apparecchio è bello e anche ha i suoi display, quanto è grande, i numeri sono abbastanza grandi perché uno oggettivamente si dice chi era spesso. E se proprio è omologato che si può tenere, io lo comprerei, però dovrei essere sicuro, oppure bisogna entrare nelle cose e chiedere a loro se veramente è omologato in termini di questa legge, se lo dice che è omologato, però se veramente questa targhetta deve esserci per forza, oppure c'è in qualche posto la targhetta, può essere anche sotto, perché dietro non l'ho visto io. Sì, infatti dietro alle alette, probabilmente non c'era posto, allora l'hanno fatte, vediamo, comunque uscito italiano mi serve, aspetta. Allora, lo vende anche Media Group lo vende, di solito a prezzi buoni, vediamo un po' cosa dice. Mamma mia, questa connessione mi fa incavolare, non voglio parlare male, questa connessione, vabbè, mi fa diventare matto. E guarda che per quel prezzo io dico che si può prendere occhi chiusi, 63 euro e 6 euro di spedizione si può prendere quell'apparecchio. Poi è bello, bellissimo, anche come presenza, è bello, è non è piccolino, è presente, bello, dai, vedi un po'. Lo so che ce l'hanno parecchi, capito? No, che ce l'hanno parecchi, però bisogna vedere un po', chiedere loro se questa targhetta è veramente, esiste, se c'è, capito? Perché non puoi prendere una cosa a occhio chiusi, certo, sino dopo è un casotto, capito? Ma capito? Vedo un po', dai, io te l'appoggio. Vediamo, 59 euro da Meta Group, 59 euro, 10 euro in meno. Allora, Presidente Pirri, ASC, 10 trasmettitore CB, 40 canali MFM, omologato, dice, vediamo le foto. Mamma mia, non le fa vedere, boh. Quello è. Lo so che stanno in parecchi, dai, sono apparati nuovi che sono usciti adesso, capito? Per cui speriamo che ce l'abbiano. Sì, perché è bellissimo. Avanti, pomponi. Buonasera a tutti, per essere scucciti. Togliene questo ecco, gatta, io che mi sembri dentro la chiesa. Scusa, mi stavo usando l'ecco del coso, della palazzo. Ho detto bene scucciti. Altrettanto, ecco, così va bene, adesso sei tu. Va bene, ormai lecca lecca, hanno tutti leccati e sono stanchi, non possono leccare più. Va bene ugualmente così, lascia così che è un bombò. Sì, lo lascio così, io da parecchio ho già visto, il mio. L'ho già anche già prenotato a Sassari, 100 euro e me lo sto ritirando fra 3-4 giorni. 100 euro, e qua? Non ti preoccupare tu, ti faccio la foto per il ritiro. Ma tanto c'è. Sì, ma se ti piace è scritto omologato c'è, però bisogna vedere se sull'apparecchio c'è la targhetta. C'è la targhetta dietro, c'è anche nel manuale scritto come fare la concessione, il foglio che hanno scritto loro come fabbrica che è idoneo. Su quell'apparecchio che stiamo parlando noi non c'è. Capito? C'è scritto solo omologato a norma dell'Unione Europea. Boh, non c'è scritto altro. E sul retro non c'è. Di solito quella targhetta deve essere vicino al PL. Capito? E invece questo non ce l'ha su targhetta lì, capito? Salvo che non ce l'ha posto, l'hanno messo sotto. Oppure all'interno, ma all'interno non credo, A meno che non ci sia l'adesivo nella scatola, glielo metti tu. Può essere. Adesso sta guardando Marco, vedo un po'. Dai. Perché se no conviene direttamente a mandare un email a vedere un po' se questo apparecchio ce l'ha la targhetta, e dove ce l'ha, se la targhetta allora si piglia, ma se non c'è la targhetta non puoi prendere la cosa da occhi chiusi, la puoi pigliare e si buttare, non ce l'hanno. Quello che ho preso io c'è il frequenzimetro, celeste. Vabbè, c'erano soltanto apparecchi, ma a me mi piace quello, se quello veramente è come che c'è la targhetta, io lo prendo quello lì, se no ne prenderò un altro, capito? Per dire che mi piace, però che se non mi piace non le prendo. Vabbè, io l'ho pigliato peccato per tenere in mano. Lo metto in salone e lo lascio lì, con un capo, e il resto lo lascio chiuso in camera mia e da lì non si entra. Bisogna essere calmi, senza essere un po' prepotente con certe persone, perché sai benissimo che se vogliono entrano, stai tranquillo, però bisogna anche essere adeguati a queste cose, vai. Essere calmo e tranquillo, sia tranquillo, cosa c'ha da temere? Che a me non quando è tranquillo per me posso entrare, guardare, capito? Perché se entrano solo per controllarti questo che devono controllare, basta, capito? Appunto, possono controllare quello che vogliono. Se l'apparato non è agganciato come all'alimentatore e all'antenna, lo puoi tenere. È successo anche tanti anni fa, quindi la cosa non cambia, non te lo possono né portare via, né tantomeno mettetelo in busta. Quello è quando fai la domanda, ci scrivi, fai la come si chiama, e ci scrivi apparati da collezione, basta, e ti salvi il culo. Stai calmo, Antonio. E beh, Marco. Ha scritto che sono apparati da collezione, senza essere agganciati a nessun alimentatore, tanto meno antenna. Ed equivale in pratica che gli apparecchi non sono funzionanti, è tutto lì. Poi se loro ti dicono faccia funzionare uno, no, assolutamente non si toccano quegli apparecchi. Ci sono apparecchi delle collezioni, a me piace fare collezioni di apparecchi antichi, vintage. Quindi a me nessuno mi vieta di comprarli. Che non ti ritrovano agganciati a nessuna antenna, che non ci sia nessuna antenna lì vicino, nella camera, cosa del genere, o alimentatore, tu sei a posto. Non ti posso dire nulla, Dio Maria. Informati, perché è una cosa che è giusta, che ti sto dicendo, come norma. Poi vedi tu, non lo so. Io non c'è niente da temere. Ma addirittura ne ha più di 15 di quegli apparecchi. Grazie a Dio non hanno toccato manco uno, anzi uno solo ne hanno toccato, la verità. 11, quello che c'era, 11,45 metri. Poi il resto non gli ha toccato niente. Li hanno messo in busta, quella volta lì. Poi ha fatto il foglio di sequestro tramite l'avvocato che gli ha dato il foglio del Finserre io, che adesso ce l'ha lui, io la coppia originale, io non c'ho neanche il resto. però c'è, basta andare nel sito Pincer e c'è il foglio di sequestro. Nel caso dovessero fare abuso di potere, vai lì e te lo diranno dopo indietro. Un attimo, hai soprammodulato a Marco che mi stava dicendo cosa, e l'hai soprammodulato. Avanti Marco. Io vado a mangiare, dopo ti dirò qualcosa dopo. Ciao. Ok, d'accordo, va. D'accordo. Adesso tiro la pagina, vediamo un po', vai. A te, ci sentiamo dopo. Io fai con comodo, non c'è problema. Comunque ti sto dicendo, la domanda sono quelle, c'è poco da sbagliare. Poi se non ci credi basta controllare nel sito Pincer, al limite se trovi a cosa mia, che adesso vabbè, lui frequenta il circolo lì vicino a casa tua, ce li ha lui le coppie, ce li ha originali, vico presidente del Pincer, che me l'aveva dato lui. Te le fai dare, non costa niente, e così te le metti in casa, nel caso dovessi avere qualche problema gliele presenti. Dici, aspetta che abbiamo solato. Chi è là? Chi è là? Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Avanti, avanti, chi è te? Mi sembra un ciucucciù dal Ghero questo. Ciucucciù, ciucucciù, ci sei? Tore, Tore, Tore. Buonasera, io. Ebbe. Ciao, mi senti? Chi sei? Ciao, Franco. Franco, ah, ciao, già fra. Senti, non ti stavo riconoscendo. Buonasera, Gio Maria. Sì, ciao, Gio Maria, cosa ero un po' lontano. E beh, poi avete chiamato per far proprio la questione, com'era? Gente, c'è una radio, un bea puta, cazzo. Oh, strano, non ti ho mai sentito così. Strano. Dove? Questo, normale. Non ho sbagliato di nuovo antenna. Ma non credo. Forse ero lontano, adesso va meglio. Sì, sì, adesso è perfetta. Sì, stavo dicendo, voi avete scoperto qualcosa su questi apparecchi che sono registrati, però sono illegali, queste cose italiane. Abbiamo telefonato e già ci hanno dato il risultato giusto, dai, come hanno detto qua. Quindi quelli vecchi non sono conformi, anche se sono omologati, così? Confermo, infatti, quelli noi non li dobbiamo buttare, ce li dobbiamo tenere magari un metro a fianco senza essere collegato e usare gli apparati omologati con l'etichetta CE. Possiamo usare solo quelli lì, però quegli altri prima non si possono più usare, non si possono più usare. Ci hanno confermato loro a Cagliari, abbiamo preso direttamente a Cagliari e già era come hanno detto qua, vai. Per cui o li buttiamo o ci teniamo a fare il barrazzo. Ho detto Gio Mario che sono normative europee, però è anche vero che l'Italia è molto inadempiente, perché se proprio volevano una cosa del genere, a un certo punto tu mandavi una bella letterina a tutti, li avvisavi e non andavi a mettere certo contravvenzioni. E dicevi guardate eccetera eccetera che questi apparecchi sono stati considerati, ma almeno lo sapevi, qua invece devi telefonare e chiamare un assente e dopo che magari ti sei preso la multa. Sono cose, va, lasciamo perdere. Ma è iniziato sempre a ragione loro, a me mi sembra che c'è qualcosa sotto. Ci sembra ragazzi che adesso devo comprare un altro apparato e questo lo devo mettere da una parte o buttarlo, secondo me non... prima erano omologati, adesso non sono più omologati e ammetto magari prima erano 5 watt, adesso sono 4 watt, vabbè, da 4 a 5, la differenza non è che sia molta, però va bene ugualmente 4 watt. Però mi sembra che qualcuno, non so, che c'è qualche cosa che si mangia lì, se non sbaglio, Ma Giovanni, non credo perché c'è poco da mangiare, ti avrei dato ragione se c'è da mangiare, ma proprio lì c'è poco da mangiare, perché per me è un mercato già da anni, con l'avvento dei telefonini. proprio in discesa, perlomeno qua in Italia proprio non ne vengono pochini, per quanto li fanno nuovi, stranosi, colorati, a pontini, a pua, gialli, verdi, però ci prendono pochi apparati oramai. Ci sono pochi appassionati, c'è gente che non sa neanche cos'è la radio, dice che in macchina ce l'ho però non la uso e si riferisce alla tua radio. Purtroppo Gian Maria è così, ma ripeto, noi abbiamo dei burocrati che, guarda, state attento, dovunque vai siamo una delegatità, se tagli un albero ti arrestano pure, anche se tu. Sì, ma è così, infatti. Se gli altri nazioni non hanno, va bene, se gli nazioni c'è la sua legge, però in Italia mi sembra che sia lì, chi lo capisce, certo, ma tu ti sembra che io adesso devo metto la parte, questo compriamo un altro apparato, ma è comunque che deve esserci l'apparecchio omologato, dietro deve esserci scritto l'omologazione, con l'insegna c'è, cioè, se non c'è quello lì non è omologato, ecco, boh. Non lo so com'è questa questione, se si trovano sì oppure no. Infatti noi ne ho visto uno, stiamo guardando, avevo un po', no, ma il retro non si legge, e bisogna mandare un'email a vedere un po' se è normale questo, l'abbiamo visto, se c'è la targhetta, se no è inutile a comprarlo, perché se non c'è la targhetta con la CE, tu lo prendi, dopo vengono e te lo ritirano ed è un caos. Allora, prima di acquistare un apparato bisogna anche assicurarsi bene se è in regola oppure no. O no? C'è qualcuno che si sente male. A dolori. Gian Maria, purtroppo sembra che sia così. Dovresti chiedere se c'ha proprio il certificato. Tutti quelli c'è che hanno il certificato, che è un foglio di carta nel manuale o nell'ultima pagina del manuale del costruttore, che dice questo apparecchio conforme alle regole eccetera eccetera, c'è numero bla bla bla, e c'è la firma sotto, tutto lì. E solo rispetto qua è sempre la stessa cosa. Comunque, per quello che riguarda quella persona, non è che stanno facendo controlli tutti i giorni, fanno solo i controlli quando c'è qualcuno che rompe le scatole, dice quello disturba, quello disturba, quello disturba, anche se ci hanno torto, e alla fine devono intervenire. E purtroppo c'è stato questo indizio che pochi sapevano, è stato pure preso la contravvenzione a quanto pare. Beh, infatti so che è stato il bonus della questione, ma tutti hanno paura perché sapendo che avevamo gli apparati omologati, e adesso ci dicono che da questa questione che è stata scoperta adesso, una cosa strana veramente, e tutti hanno paura, allora si cerca di mettere a posto la cosa per essere più tranquillo, perché mi piacerebbe che vengano qua, che aspetta, anche se sto, io ce li ho omologato, questo qua è omologato, vengono qua e mi dicono questo apparecchio non è omologato, per cui lo dobbiamo sequestrare, perché non mi hanno avvisato? Perché non avvisano loro se questi apparati di prima non vanno più bene? Dovrebbero avvisare loro, invece non ci hanno avvisato, adesso abbiamo saputo da questo fatto, si sente questo amico, però a quell'amico si sente magari perché lui disturbava, è avvisato varie volte e quasi quasi finivano alle mani, e allora quello lì magari ha fatto quello che doveva fare, è successo il patatraca, tutto lì già fra. Suia, mi vedi entrare. Ma se tu stai sempre a dolori, noi ci preoccupiamo, facciamo entrare all'ospedale. Allora Gian Mario, ho visto un video sulla parte esterna delle alette, da un lato sulla aletta c'è la dicitura CE0700 che non avevo mai visto, perché io di solito sui miei baracchini ho letto 0341 0678, ma questo 0700 non l'avevo mai visto. Quanto sta che c'è? C'è la targhetta, c'è, capito? C'è scritto sulla scatola anche il nome europeo, sicuramente al certificato di conformità, perché ormai quelli importanti e non ce l'hanno tutti. Per 59 euro da Media Globe può essere un buon acquisto. Ricordate, Media Globe ha prezzi sempre più bassi, non so perché. Vai Gianfra. No, no, questo non può mangiare, presumo. Più bassi perché ne prendono due e chissà se li prendono pure. Non è, sta dicendo prima, cioè c'è sempre meno spazio, quindi se ci sono meno vendite di questi apparecchi, cosa li fanno? Mi tiene anche cari, già non te ne comprano. Eia, tu Gianfra non sai niente di queste targhette, cosa vogliono dire? C0341, 06, com'era? 0678, non so, se hanno un riferimento al paese di produzione, non so niente, non so niente di quello. Comunque la targhetta c'è Gio Maria, c'è scritto anche sulla scatola che ha norme europee, eccetera, eccetera, sicuramente ha il certificato di garanzia, poi controllerò. E quindi vedi tu se ti piace, fidalo. Oh, sto uscendo. Sì, sì, forse Gio Maria che sono lontanato. Adesso Gianfra è venuta, siccome è successo questa cosa qui a Coso, è venuta la psicosi a tutti del baracchino dove c'è. Sì, una vita con baracconi, eh? 200, 400 canali, adesso c'è la psicosi della CE. Ma certo, il presidente sono baracchini, credo, di origine americana, no? Infatti io conoscevo il presidente Henry, no? E lui mi diceva il presidente Perry, questo Perry, ma leggi bene, è un H, non è una P. Invece hanno fatto proprio il presidente Perry come baracchino, che non so se abbia riscontro con un nome di presidente americano, questo Perry non lo sapevo che esistesse, non lo sapevo. Scusa un attimo, ma un attimino al telefono. E io? Sì, ok, Giovanni. Sì, ce ne sono tanti della presidente, tanti modelli con nome di presidente, da quelli più vecchi che conosciamo tutti a quelli più strani, ce ne sono tutta una catena di questi apparecchi, che poi sono dello scatto vette, sono dello scatto vicine, costano anche 4 soldi, non raggiungono neanche 300 euro. Quindi non so come siano, come sta essere l'attività, ma penso che siano proprio terra a terra, diciamola. E Roma usa gente, Gianfra, perché magari vale quanto un ala 48 nuovo, quello che siamo lì. Usa gente, cioè lo vai a riparare, già 30 euro sono per vederlo, no? Un apparecchietto costa 59 euro, come questo. Questo stesso ha un prezzo simile, forse anche inferiore. Esce come esce, perché purtroppo la valutazione è quella che è. Ma con la stessa faccia ne compri un altro, certo non lo puoi aggiustare, no? Tutto CMD è. Vabbè, comunque da una c'è dovrebbe essere. Poi cercherò il manuale d'uso per vedere se c'è, sicuramente c'è il manuale di, come si chiama, certificato di conformità. Ok. Così finalmente Gio Maria se lo prende e dorme, sono tranquilli. E questo segnalone da lontano. Sì, se proprio uno vuole stare tranquillo, però no, non credo che ci abbiano nei mesi nel tempo di andare a fare questi controlli, perché sono cose, ripeto, molto più importanti da fare. Questi perché tutti hanno fatto un esposto, che hanno detto via, numero, persona. Sarebbe stato meglio anche guardarli anche negli altri, secondo me. Se fosse stata una cosa fatta bene, e magari ci scappava anche una contravvenzione a quelli là. Ma sai come fanno? Dice, sì, allora c'è lì così, ne era no, a norma, le missioni erano a norma, però visto che non è, allora c'è, li hanno sequestrato e sicuramente non hanno controllato nemmeno le azioni degli altri, capito? C'è chi ci prende sempre il CB alla fine. Ma domanda, e se fosse stato a norma c'è Baracchinetto, avrebbero controllato altre antenne, perché Natalino a casa sua non disturba, non fa assolutamente più guai. Cioè, è tutto avvicinato, le antenne più o meno marce, o cavo pieno d'acqua, o scatoletta tipo vaschetta di pesce, non so, non lo so. Io gli volevo prestare questo, almeno per affrontare, solo che poi se parla contro capo, e quindi come va a finire poi? Se lui l'apparecchio sono omologato, controlleranno le antenne, spero. Monteranno chi devono multare. Ma infatti io mi prenderei con la soddisfazione, guarda. Io mi prenderei un apparecchio di ultimo modello di questi che costano poco, veramente poco, ma prenderei proprio a luogo come si sottile per fare quella funzione. Con 4W, omologato, etichetta CE, etichetta TRAC, collegato direttamente all'antenna, con un voltmetro anche marcato CE, tutto quello che vuoi, proprio tutto a regola d'arte, col suo bel alimentatore marcato anche CE, quello. Dopodiché alla grande, proprio mattina e sera, finché non chiamano anche guarda la guardia operatoria. Dopodiché ci fa, mi sarei fatto 4 risultati. Vabbè, purtroppo ci sono anche altre cose, amiche della moglie appunto si lamentavano, non lo so, dipende da lui. Certo è che non vorrei che poi gli do il baracchino, trovano qualche capillo, lo sequestrano e ci perdo io, no? Ce lo perdo io, non che valga molto, io questo potrei buttarlo alla finestra, schiacciarlo sotto i piedi, il baracchino che sto usando in questo istante. Glielo devo dare, modulare, poi si vedrà, se lui è a norma. Certo, l'antenna è bassa, l'antenna è troppo bassa e l'altezza di antenna TV. Di norma, cioè, dovrebbe stare almeno sopra l'antenna TV e dietro, ma lì non è possibile perché i palazzi lì sono tutti attaccati, non hai visto, apri la finestra e c'è la finestra del lato davanti, è un vicoletto, capito? Vabbè, si vedrà, io vorrei darglielo, io c'è anche tutto, c'è il ritratto di conformità, siccome è microscopico nel manuale, l'ho fotocopiato grande, l'ho ingrandito, l'ho acquisito a 1200 dpi e l'ho stampato foglio A4, tutto foglio, a vedere se lo leggono bene. Mi dispiace la Natalia, perché non è giusto che, vabbè, loro hanno diritto a vedere la TV, ma lui paga lo stesso diritto a usare il baracchino. Bisogna risolvere questa questione. Gio Maria, sei rientrato? Comunque Gianfari, queste sigle tu non sai nulla, no? C'è 0341, 0678, eccetera. Cioè, non so a cosa si riferiscano, forse è fase di produzione, Ma era 0341, hai detto? Allora, 3009 è 0341, che poi è il più, quello che vedo di più, diciamo, come omologazione, quello che è. Poi questo di adesso è CE0678. Questo che vuole prendere Gio Maria è 0700. Non so a cosa ti riferisca. Non vorrei che trovassero capire anche lì. Come 0307? Allora, 0341. Ed è quello del Superstar 3009 omologato. Questo di adesso, che sto già adesso, 0678. No, allora me lo fa. 0678. Sono ti diamo locazione per la... non va a dire, c'è 077 ore. Che ci fosse bisognerebbe trovare. E come dicevo, il presidente che si vuole prendere Gio Maria è 0700. In tutta Europa, insomma, ci sono un sacco di prove video di gente in Europa che lo fa vedere, che fa vedere, c'è il display a colori, chi se ne frega. A me interessa che non abbia scuri armoniche magari, più che il display a colori. Sì, allora, questi fanno cazzo sicuramente, una normativa del 2014 della Gazzetta Ufficiale. Un attimo che si chiama RED, Radio Recentemente Direttiva Equipaggiamenti Radio. Ah ecco, ma la sua effettiva efficacia è luglio 2017, quindi è molto... quindi in realtà la normativa c'era dal 14, però è stata in vigore dal 2017. Capo delle apparecchiature che si usano la zona elettromagnetica, eccetera, eccetera, eccetera, quelle che cioè era la base del marchio CE stampigliato, probabilmente contraffatto da alcuni, tra parentesi, dentro ogni dispositivo elettronico. Poi, dopo leggiamo i riferimenti. Comunque è entrata nel luglio 2017, quindi non è l'anno scorso praticamente. Questo 0700, se trovi nulla? No, questo bisogna cercarlo. Infatti il Dipartimento delle Comunicazioni ha creato, dice, un nuovo organismo per il controllo e verifica che sarà pronto a verificare le segnalazioni che giungono dai cittadini. Wow. Sembra che i cittadini abbiano l'impianto TV a posto. Quello c'è, sai com'è, tutto questo paese è molto strano. Adesso ti dico il modello, questo è un Polmar, quindi azienda italiana, però lo fanno 10.000 case questo, Polmar ZX40, praticamente la versione povera della Fayette Zeus. La Fayette Zeus ha il frontalino più rifinito, questo è proprio primitivo direi, come il frontalino, cioè non ha rifiniture, è abbastanza spartano, però insomma funziona, vedo che è riuscito a capire anche la voce, buono. Sì. Niente, è così. Io mi ha parato, per un po' devo fare lo stato da qua. Che casotto per me. Diciamo che sono le omologazioni europee. Prima c'era il solito omologato al punto 8, TCSR, bla bla bla, del... adesso così si è 0678, 0341 eccetera. Ah, io Gio Maria si è entrato, se no chiudomi. Va bene, non fa niente. Un pugno ci sei, tu che sei pratico di omologazioni fatte in casa, tutti morti oggi, va bene. Caspita, sono anche le 9:15 e loro chiudono a quest'ora. Vabbè. Comunque lui ha detto 69 di prezzo, da media globale 59, poi saranno 7 euro di spedizione, 7-8, dipende da che corriere usa. No, media globale, cioè che sia, ma è abbastanza veloce, comunque. 3 giorni di normativa. Comunque se voi c'è la direttiva del 2014/53/UE. Che serve proprio composta queste sigle, queste norme qua le conosca? Sì, speriamo. Quindi, tranne la scala in cui le apparecchiature siano state messe in soluzione sul mercato, le apparecchiature radio utilizzate per la diagnostica. Hola amigo, giorni scorsi c'era una propagazione abbastanza marcata, soprattutto gente del FM c'era, i soliti brasiliani sul 34 e il 38 mi pare, forti adesso inizia, se smette questo mal senso mi piace di loro la nostra preparazione, per la mala quanto, per le quante è più difficile ascoltare. È così. Comunque questo qua è nel sito, il tuo riferimento è il ministro dello sviluppo economico e devi cercare emissione sul mercato di apparecchiature radio, direttiva 2014/53, e poi anche il decreto legislativo del 22 giugno 2016, 1928. E lì ti dice tutto e c'è anche un database sull'apparecchiatura o del tipo come devono essere. Sì, casomai vedo un'occhiata anche se lì tutto bla bla bla, insomma, basta che sia omologato. Va bene. No, però avevo detto che siete molto sul manuale. C'è un foglio, sacchi la targhetta, perché il baracchino, non so. Non lo so, tipo figurine. Ce l'attaccano già loro la targhetta, dai, quello che è l'adesivo. Scusa, siamo pieni di quelli adesivi, tu ti prendi qualsiasi cosa che c'hai, anche una radio normale, una radiolina, eccetera. E dietro c'è l'etichetta, ho scritto, a volte addirittura proprio nella papigliata, no? Quindi c'è poco da attaccare, o è metallica, e comunque c'è il marchio, le specifiche dell'apparato, della numerazione. E in più nel manuale, quando la compri, c'è anche il famoso foglietto. No, è così. Chi è? Guarda che nella targhetta, dove c'è anche la matricola, quel cosa c'è, dove c'è, cambi quella matricola, è come non sia di quella radio, infatti. Io cosa ho detto? Io non sto facendo altro che citare la legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, deve fare anche la normativa che fa riferimento. Io dico così. C'è anche un elenco ben preciso ed è vale per tutti i paesi dell'Unione Europea, tra l'altro. È entrata il vigore del 27, insomma luglio 2017, l'anno scorso. Sì, è così, siccome io ho visto, ne ho visto uno che io ho omologato, però non sono con la norma certa, non so. Ho visto uno, il del Milan, tra l'altro, e la targhetta, sulla targhetta c'è, norma c'è, però c'è anche il numero di matricola di numerazione, sempre tutto in una targhetta, normalmente il numero di numerazione corrisponde a quella radio lì. Sicuramente ce l'hanno un elenco, ma la cosa importante per tutta Europa è l'innovazione c'è, no? Perché racchiude anche effettivamente i parametri dell'omologazione stessa. Riprendi l'altro. Sì, Franco, no, siccome Pomponio faceva discorsi, praticamente Pomponio si personalizza le omologazioni, capito? Targhette attaccate, ciò per il che non omologazione. Sì, vabbè, lascia stare la domanda di Ciampanello, che non è così facile come dicevi. E se lui inizia targhetta c'è di un altro oggetto che se ne accorga, anche di una radiolina, anche di un'altra baratino se ne accorga, sicuramente. Quindi ogni cosa c'ha il suo, ogni pezzo c'ha la sua targhetta, cioè è inutile lì stare lì a dire stamattina, no, ieri no, stamattina, ieri. Sono andato lì alla, come la stata lì, da IBC, ho visto il Midland lì, solo che ne valeva troppo. Midland, quello ultimo modello, che voleva 200 euro, in promozione lui mi ha detto, 200 euro, ha giurato, ma 160, massimo 170 giù in internet. E lui mi ha risposto, Antonelli, cioè, ma guarda che lui non sapeva fare il tutto, se si entra, non si fa entrare, allora gli avrai come si funziona. Se non vuoi dare 200 euro di nuovo una radio del genere, non vuoi dare 40 canali, lascia perdere. Con 200 euro aggiungo la fettina e prendo una paese. Guarda, io mi ricordo che Media Group per un periodo ha dato il nuovo Alan 48, scritto in lettere, a 150 euro. Quello era un prezzaccio, pensa che stavo facendo un gola persino a me. Poi però ho detto io alla fine, cos'è un 40 canali, misero MFM, non ho preso. Però il prezzo era buono. Così come da Media Group avevo preso il 3009 omologato a 150 euro sempre, mentre gli altri il 3009 omologato lo vendevano a 189 euro giù di lì, no? 180, 190, avevo preso da Media Group a 150 euro ed era un ottimo prezzo, e è quello che ho tuttora sotto, però è spento adesso, sto usando un apparecchietto da ridere che non vale lo schiaffo, capito? Sì, ma sarà per una cosa del genere, questo l'ho ricevuto via tutto. Avanti, non mi ricordo il tuo nome da tipo. Gaffran comunque, dai, io uso il nome, anche se c'è un nome nativo che era Albaqua, però utilizzo Gaffran. Ok, Gaffran, sono un attimo. Non me lo ricordavo, c'era il mio stesso nome, io sono Francesco, vabbè, ma ancora, dai, in radio. Direi che abbiamo lo stesso nome, e io non me lo ricordavo. E vabbè, capita. Sì, perché tanto ormai si fa prima, no? Tanto siamo pochissimi oramai. Sì, pochissimi, quasi niente, tutta la sera non c'è nessuno, non c'è nessuno. C'è gente che mette la passante, però non è. E beh, quindi quelli sono rimasti. Almeno qualcuno mette la passante, c'è. Esatto. Vabbè, qualcuno è rimasto, va. Però, va, dico, a me se tu vieni, se chiavi, mettono la passante, poi non entrano, rimangono lì. E la piazza non è basta, e fa vedere il mese di 6 miliardi di soldi, però non è ecco. Ma non c'è niente da fare, vabbè che oramai saranno ricchi e stravicchi, che sì, non sono portanti. Quindi, insomma, comunque sono da ammirare per la pazza speranza, e magari, vabbè, sono da giovane, adesso sono ricchi, e la mettono anche quando non c'è nessuno. Vabbè, i vecchi ricchi già non lo fanno più, sono più giovanissimi. Va bene. E beh, Marco, tutti la verità. Ogni tanto entro, dai, e non sempre. Sono anche mezzo raffreddato, capita. No, Gianfranco, a proposito che prima stiamo facendo il verso, ero a dolore davvero. Ti spiego, io ho una specie di... Se note, mangiando il riso, mi si blocca la bocca allo stomaco, non so se ci sia un'ansia, non lo so. C'è qualcosa da controllare che non voglio controllare perché quelli mi fanno la gastroscopia, no? Ho mangiato il riso in fretta, mi si è bloccato, sento i dolori alla bocca allo stomaco e non riuscivo anche bevendo l'acqua a buttarlo giù, proprio buttavo fuori acqua e schiuma. E oggi mi ha fatto veramente penare e l'errore mio è stato non bere acqua mentre mangiavo, capito? E mi ha fatto passare anche la voglia di mangiare, poi non ho mangiato altro. E vabbè, se l'ho buttato anche il riso, va bene. Quindi ho detto un pugno, però poi non è entrato nessuno, né nessun altro. Dai. Stavamo discutendo con Gian Maria sull'omologazione di questo paracchinetto che vuole prendere lui, e pare sia omologato, si è, capito? Hanno messo la targhettina, siccome c'ha le alette dietro di raffreddamento, non c'era né dietro, né sopra, né sotto, bensì hanno messo sulla aletta più esterna, hanno messo la targhettina di omologazione in verticale, capito? Io capisco, non so che niente, perché si sta aumentando il PRM e la popolazione si sta coprendo, non ho capito niente, avanti già fra, io non ho capito bene a Marco. No, andate aumentando. Marco, guarda che comunque quella cosa lì, se non ci scende, questa è una stenosi esofagea, quindi stiamo un po' attento. Tanto adesso oramai la gastro la fanno sempre anestesia, neanche se ne accorgi proprio. Anzi, ti svegli e ti dice, ma no, non la fate ancora, perché ti addormenti spesso e volentieri. Poi dobbiamo sperare di essere addormentato, mamma mia. No, guarda, me lo faccio uno col riso. Il riso è una cosa, non lo so perché. E si pianta che... Senza lo ti dica, no? Certo, un controllino andrebbe fatto, ma siamo troppo la gastroscopia. Tutti quelli che l'hanno fatto hanno detto che è brutta, è fastidiosa. Per carità, guarda, la cosa che ti amo di più è che preferisco... Preferisco qualcosa da dietro che non da bocca, dalla bocca. Comunque fatti vedere, perché sono in giro tante cose non belle ed è un esame oramai di screening particolare. Conviene farlo. Scusate che mi è arrivato gente che ci siamo, dai. Ciao Giappa, al cucinino, dai. E ciao Marco, ci sentiamo. Ciao Franco, buona serata. Ti senti male? Sì, ciao Franco, ci sentiamo. C'è tutto chiuso anche di naso. Abbiamo qua preso freddo perché io rischio, sai, sole, pioggia, sole, nuvole, in macchina c'è caldo, fuori c'è freddo. Ho il rischio di stare in camicia. Vabbè, sotto una canottierina leggera, tipo maglietta, no? Però è troppo poco. E quindi ho spalsi di temperatura, ma sono abbastanza coperto, quindi mi frega per quello. Volevo fare un QTC, vediamo se c'è Marino all'ascolto. Marino, ci sei all'ascolto? E oggi niente, dai. No, perché volevo mandare a Gio Maria, di cui non ho WhatsApp, non ho il contatto WhatsApp, volevo mandargli la foto con l'omologazione del baracchinetto, dai. Almeno se lo compra e finisce la storia. Vabbè. Comunque la sorveglianza la dovrebbero fare loro in fase proprio di impostazione, non credo. Anche perché molti non sapeva queste cose qua. Ma infatti pensa che sulla lista degli apparecchi omologati, non so, presa dal Ministero dello Sviluppo Economico, non so, figuravano paracchini omologati di 20 anni fa, di 30 anni fa, lo sai? Non mi ricordo più dove il collegamento a questa lista, però, sul sito. E figuravano parecchia, avevano 48 volt. E allora se contraddicono loro stessi, cavolo. Però vedi, non sarebbe successo niente se Natalino non avesse fatto TVI. Purtroppo TVI è feroce, non per colpa sua, però ci è passato molto. Pazienza. E quindi bisogna vedere queste norme e valutarle come sono. Tutto lì. No. C'è tutta una avanti per sé. Lunga, è particolareggiata. Vabbè, comunque vedo che non entra nessuno, io gira gira chiudo, dai. Tanto gliel'ho detto già, come darà. Poi glielo dirò domani, se non volevo tirare, se lo ordine, certo ci vuole anche una spedizione, quindi saranno massimo 10 euro, però almeno. E non ci stiamo dormendo la notte, già Maria. Ma tu, se non fai di guai, se non hai problemi particolari di guai, non c'è tutta questa necessità estrema, però vuole averlo, perché noi siamo omologati vecchi, vuole averne uno nuovo, e vabbè. Così. Beh, io ho degli apparati molto vecchi, come ancora la testa, chi c'era, però ancora non c'erano le normative. Qua. Che però dovrebbe essere esonerata da queste cose, perché se sono attriato, andiamo a vedere. Va bene, il radiatore è tutto un altro discorso, il radiatore si potrebbe in teoria costruire da sé la radio, basta che non lo so, ci saranno dei parametri da rispettare, però poi a quanto sono interessato, mamma mia. Va bene Gianfra, io quasi quasi chiudo, là sono le 8, adesso mi guardo un pezzetto di giornale e ci facciamo il caffè anche, ok? Ci sentiamo anche domani, ok? Salvo, tocchiamo ferro, salvo imprevisti vari, invasione barbarica, parenti, eccetera, ok? Ciao, buona serata Gianfra, ciao. Ok, ciao Marco, buona serata. Sentiamo anche chiudo che mi è passata l'ora così e sono già le 8:05, senza accorgermi. Ci sentiamo, buona serata a tutti anche a chi ascolta. Ciao ciao. Ciao ciao.